Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica, con i settimanali italiani e stranieri. Vediamo che cosa c'è da leggere, che cosa c'è da vedere, quali sono le notizie più interessanti sulla stampa periodica di quest'oggi. Allora, innanzitutto, da ieri è in edicola con il Sole 24 Ore, il mensile del Sole 24 Ore, che si chiama 24. Penso lo conosciate, è un mensile che appunto viene diffuso con il Sole 24 Ore, ma questa volta presenta un numero molto particolare. Perché? Perché il numero è stato realizzato in collaborazione con Antonio Marras. Antonio Marras è un designer, è un creatore di moda, è uno stilista, insomma un personaggio in qualche modo di grande importanza per il design italiano, e ha curato per 24 proprio questa edizione particolare, che esce poi in concomitanza con il Salone del Mobile. Allora, lo trovate in vendita con il Sole 24 Ore proprio in questi giorni, da ieri. Il tratto di Marras è molto riconoscibile nel disegno delle pagine, nell'utilizzo dei vari materiali con cui lui ha deciso di corredare appunto le pagine di 24, e come sempre il numero è poi incentrato su una parola chiave. La parola chiave di questo mese è la parola urgenza. C'è in qualche modo un'urgenza di fare, c'è un tempo che incalza, sembrano dire le storie che vengono raccolte in questo numero di 24, e anche in alcune delle decorazioni che Marras ha scelto. Il numero è come sempre molto ricco di spunti. Io vi segnalo alcune cose qua e là. C'è la storia di un giovane ciabattino, un giovane creatore di scarpe, ma di scarpe molto locale, insomma, che sardo, che sognava di incontrare Olga Berluti, che ed è riuscito a farlo proprio grazie a 24. Questo incontro viene descritto appunto su questo numero di 24. Poi c'è un articolo molto interessante che riguarda le convinzioni, le superstizioni che in qualche modo possono condizionare il nostro modo di comportarci. Si chiama Pensiero condizionato, il lavoro è di Sasha Carnevali, e la spiegazione sta nelle primissime righe di questo articolo. La razionalità, si dice, può ben poco contro le convinzioni superstiziose. Ce ne informa Andrew Newberg, che è pioniere della neuroteologia, che lo ha verificato. Il cervello umano è progettato per essere credulone, insomma crediamo quello che vogliamo credere, vediamo quello che vogliamo vedere in qualche modo. La ripetizione di un rituale fa sì che i neuroni si connettano sempre allo stesso modo, così a forza di praticarle le idee si rafforzano. Vi leggo qualche brano, poi vi rimando naturalmente al numero di 24 in edicola per la storia intera. Considerato un pioniere nel campo della neuroteologia, Andrew Newberg, che si è laureato in medicina nucleare ed è un esperto di brain imaging, dirige attualmente il Centro per la Mente e la Spiritualità dell'Università della Pennsylvania, ha dimostrato che il nostro cervello è progettato per essere credulone. Che si tratti di un leader politico, di una divinità, del potere funesto di uno specchio che va in frantumi, non fa differenza, siamo pronti a credere in qualsiasi cosa ci venga presentata con insistenza, soprattutto se in giovane età o in un contesto sociale che troviamo rassicurante. Invece di cogito ergo sum, appunto penso quindi sono, dovremmo dire credo ergo sum, credo a quello che mi viene di credere, quindi sono. Tutto ciò che pensiamo del mondo che ci circonda, persino quelli che riteniamo fatti inconfutabili, sono in realtà delle credenze. Questo è uno degli elementi che aprono l'articolo dedicato a Andrew Newberg. Vi rimando poi appunto a 24 per l'articolo di Sasha Carnevali. Sempre su 24, una curiosità, la storia delle bretelle, un accessorio di abbigliamento che ha alterne fortune a quanto se ne sa, quindi in certi periodi va più per la maggiore, in altri meno. Ci informa Grazietta Buttazzi, dal questo numero del mensile del Sole 24 Ore, che le bretelle fanno una prima comparsa nella seconda metà del XVII secolo. Si chiamavano allora brazzeruole, erano contemporanee alla moda dei calzoni corti e larghissimi, che si erano affermati alla fine degli anni 60 del XVII secolo presso la corte francese. Le bretelle si impongono insieme appunto a questi calzoni corti e larghissimi, poi ricompaiono nel cruciale passaggio compiuto nel secondo decennio dell'Ottocento, eseguite con inserti di materiale elastico alternato a strisce di tessuto, e poi sarà ancora infine un principe di Galles, per venire ai giorni più vicini a noi, uno dei dandies responsabili del loro declino a favore della cintura, proprio nel decennio della loro massima affermazione, cioè gli anni 30 e 40 del secolo scorso. Questa è la storia delle bretelle, che trovate su 24, il magazine del Sole 24 Ore. Questa vicenda di neuroteologia e di credenze, insomma, che si crede quello che la nostra mente ci porta a credere e ci rappresentiamo una realtà in qualche modo come ci piace di pensarla, in realtà si rincorre un po' anche in altri settimanali. Ad esempio, sull'Espresso c'è un interessante articolo di Ludovica Amoroso sulle frontiere della tecnologia, perché la tecnologia potrà consentirci di pensare una musica, e il solo fatto di pensarla potrà metterci in condizioni di farla eseguire a un computer. Creare brani sonori senza strumenti, questo scrive Amoroso sull'Espresso, direttamente dal cervello. Non è fantascienza, è già realtà. Ecco come si fa e a che cosa serve. Come è successo tutto questo? Ci sono dei campi di ricerca, studi scientifici sulla mente e sulla musica, che si sono incrociati con l'utilizzo delle più recenti tecnologie. Questi campi hanno creato prospettive molto interessanti, legate sia a esperimenti di tipo artistico, sia più pragmaticamente al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità psicofisiche. Nascono così campi come la neuroscienza della musica e la Evolutionary Computer Music. Dietro tutto ciò c'è un sistema, si chiama Brain Computer Interface, quindi interfaccia cervello-computer, un sistema che permette il controllo dei macchinari con la forza del pensiero. Questi macchinari sono nati per facilitare la comunicazione per disabili, sono basati appunto sull'interazione tra cervello e computer. Gli studi fatti in Inghilterra, che si stanno ancora portando avanti in Inghilterra, consentono proprio queste applicazioni quasi da fantascienza, cioè il fatto che si possa pensare un brano musicale e far produrre al computer il brano che abbiamo sentito. E anche da Focus in realtà ci avvisano che si sta lavorando sulla capacità di tradurre il nostro pensiero in qualche cosa di compiuto, di visibile, senza passare appunto per il gesto. L'articolo si chiama Il decoder della mente. È un articolo che compare su Focus di questo mese, spiega che usando la risonanza magnetica ai computer si possono vedere i pensieri, si possono vedere le immagini, le parole, i suoni, persino i ricordi delle persone. E in futuro, e qui il sommario dell'articolo lascia questi puntini di sospensione che fanno poi immaginare alcune delle cose che si trovano nell'articolo. Ci sono appunto delle prove di cui si riferisce, ad esempio dei funzionamenti sulla macchina, una cosiddetta affinamento della cosiddetta macchina della verità. Per mentire, infatti, si è scoperto che si attivano aree cerebrali particolari che non sono controllabili ovviamente dalla persona che sta mentendo. Quindi questo lettore cerebrale è in grado, verificando quali aree del nostro cervello si attivano e quali no, se stiamo mentendo o se invece stiamo dicendo la verità. E tra l'altro si riferisce anche di esperimenti che sono riusciti a ricostruire la parola che una persona stava leggendo. È stato fatto con una parola molto corta, neurone, il computer, traducendo appunto l'attivazione delle aree in lettere, è riuscito a ricostruire la parola che la persona stava leggendo. Quindi un altro modo di interazione tra il cervello e i nostri atti, simile a quello appunto di poter pensare una musica e vederla suonata, oppure alla capacità della mente di credere, di rappresentarsi una realtà così vicina a quello che in realtà vuole e non a quello che la realtà è per davvero, quella che appunto trovavamo su 24. Restiamo un attimo ancora su Focus per parlare di lavoro, ma di lavoro in un modo un po' particolare. Beh, questo non è ovviamente un gran periodo per il lavoro in generale, non è un periodo buono per il lavoro, però ci informano da Focus che esistono poi proprio dei lavori anche brutti. I progressi della scienza, dice il mensile, si devono anche a ricercatori che svolgono lavori schifosi, noiosi o imbarazzanti. Qui ne hanno trovati 9 che considerano come i peggiori. Vi segnalo che nelle varie schede ci sono gli scienziati che vanno a caccia di pantegane, di topi da fogna, ci sono quelli che si fanno aggredire materialmente dalle sanguisughe per poterne avere dei campioni sufficienti per studiarle. Questi signori sono chiamati sanguisugologi, e ci sono anche i guardoni di macachi, cioè gli scienziati che si dedicano all'osservazione costante del comportamento delle scimmie, dei macachi, in questo caso per vedere, per verificare le loro interazioni. E poi ancora quelli che si sono fatti rinchiudere per 400 o quasi 500 giorni per simulare gli effetti di un lungo viaggio interstellare, e così via. Sono 9 mestieri, appunto, tutti utili alla scienza, ma certo non tra i mestieri che vorremmo fare come prima scelta, come prima opportunità. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di lavori, lavori un po' particolari, quelli che ci segnalava Focus, lavori un po' anche schifosi in qualche modo, come li definisce lo stesso mensile, ma comunque utili alla scienza. Ecco, questo è invece un brutto periodo per un lavoro considerato invece un bel lavoro, il manager. L'Espresso da ieri in edicola dedica la sua copertina a questa inchiesta: manager sotto tiro, accusati dai dipendenti, indicati come capri espiatori dagli azionisti. In pochi mesi hanno perso potere, status e spesso anche stipendi. Questo è l'annuncio decisamente brutto della copertina dell'Espresso, ma sulla crisi in qualche modo del manager conviene anche Famiglia Cristiana, che nel numero di questa settimana presenta un'inchiesta di Eugenio Arcidiacono intitolata Povero Manager, una professionalità in crisi dopo anni di splendori. Ora, abbiamo già parlato di questi fenomeni decisamente preoccupanti come il boss napping, cioè questo fatto di tenere in ostaggio, di tenere rinchiusi i dirigenti. È accaduto più spesso in Francia, qualche volta in Belgio, da noi sembra essere ancora un fenomeno controllato, però insomma atteggiamenti in qualche modo aggressivi, forse anche fuori luogo, perché poi la responsabilità del manager, per quanto importante, non sembra giustificare questo tipo di acrimonia, di aggressività. In ogni caso, ci informa Famiglia Cristiana che nell'industria ci sono 84.000 dirigenti, hanno uno stipendio medio annuo di 120.000 euro, ci sono stati nel 2008 5.000 licenziamenti. Nel terziario 120.000 dirigenti, lo stipendio annuo medio è un po' più basso, 106.000 euro, e hanno subito 10.000 licenziamenti nel 2008. Si legge poi in questa inchiesta, appunto da alcuni manager che vengono intervistati, dice: gli operai francesi esagerano, dice uno dei manager italiani, riferendosi appunto ai fenomeni di rapimento temporaneo dei manager, ma comprende il loro malcontento. Le aziende stanno strumentalizzando la crisi per tagliare costi, come in un'altra situazione non avrebbero mai avuto il coraggio di fare. Allora, se si tratta di ridurre voli in business class o auto aziendali, sono d'accordo, non mi va di giocare sulla pelle dei lavoratori. In questa situazione è una sorta di ammissione degli errori. Molti manager invece pensano solo a conservare la loro poltrona, quindi un'ammissione che troviamo su Famiglia Cristiana nel lavoro che ci viene proposto da Arcidiacono. L'Espresso ugualmente ci informa di come sia in corso un vero e proprio assedio al manager, additati come causa di ogni male dei dipendenti, usati come capri espiatori dagli azionisti, radiografia dei dirigenti ai tempi della recessione. Il lavoro è curato da Stefano Livadiotti e Maurizio Maggi. Si segnalano appunto le storie più diverse che stanno costellando la carriera, il percorso di manager in questo periodo. C'è chi accetta il minimo sindacale, chi nei viaggi di lavoro divide la stanza d'hotel con un collega, e così via. Sempre sull'Espresso, naturalmente, un box all'interno delle pagine di questa inchiesta presenta poi il caso francese con un poco rassicurante titolo: in Francia tira aria di rivoluzione. E si avverte sempre in questo articolo di Livadiotti e Maggi che il 31,5% dei responsabili delle risorse umane deve sforbiciare in questo periodo i compensi dei direttori. Quindi, insomma, un responsabile delle risorse umane su tre, di fatto, o poco meno, si trova a dover ridurre i compensi proprio alle persone apicali, alle persone che stanno in questo momento ai vertici dell'azienda. Non è una consolazione, ma persino coloro che cercano il lavoro per altri in questo momento subiscono la contrazione del lavoro. Lo segnala il venerdì che ieri abbiamo trovato con Repubblica. Dovrebbero trovare un lavoro a chi non ce l'ha, ma a causa della crisi, invece di garantire nuova occupazione, sono costrette a licenziare. Sono le agenzie di lavoro interinale che a Vigevano, provincia di Pavia, hanno chiuso in 3 su 6, a Belluno 4 in 2 mesi, e la CGIL Veneto conferma che nel nord-est l'80% di aspiranti lavoratori passa per le agenzie, ma se nessuno cerca manodopera è difficile che queste agenzie abbiano appunto per chi lavorare. E così anche le agenzie interinali hanno registrato negli ultimi mesi, e il dato che viene segnalato dal venerdì, un meno 40%. Anche chi ci lavorava ora si ritrova dall'altra parte della barricata per trovare una nuova occupazione. Poi qui appunto Chiara Paolin, che firma questo servizio, dice: tra l'altro un'occupazione che spesso si rivela precaria, proprio come quelle che vengono poi imputate alle agenzie di lavoro. Insomma, un momento non facile, non felice anche per chi cerca il lavoro, chi si occupa di fornire lavoro, di fornire lavoro agli altri. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di tecnologie, parliamo di internet e televisione. Perché? Perché proprio dal venerdì apprendiamo che nel 2010, che poi alla fine è l'anno prossimo, useremo il web, useremo internet più della TV. Spiega Ernesto Assante nella sua rubrica del venerdì che internet prima o poi sia destinata a superare la televisione, lo dicono tutti e da diverso tempo, ma che questo sorpasso sia imminente, previsto addirittura per il prossimo anno, è una novità di rilievo, soprattutto se a fare questa previsione è una fonte come Microsoft, che in un suo report recente appunto sulle tendenze di internet analizza i comportamenti degli utenti europei e traccia le linee di tendenza per il futuro. Microsoft sostiene che entro i prossimi 12 mesi l'uso medio di internet si aggirerà sulle 14,2 ore alla settimana, cioè 2,5 giorni in un mese, mentre la televisione si aggiudicherà 11,5 ore settimanali, pari a 2 giorni al mese. Il che non vuol dire, informa sempre Assante, che si consumerà in assoluto meno televisione, solo che la si guarderà più spesso attraverso il personal computer, che è destinato a diventare lo strumento attraverso il quale gli utenti accederanno sia ai contenuti trasmessi in banda larga sia a quelli televisivi. Secondo lo stesso studio di Microsoft, ormai il 48,5% degli europei, quindi siamo quasi a un europeo su 2, ha una connessione internet, con dati molto differenziati in realtà tra le varie aree dell'Europa, perché c'è il 76% di connessi nella parte del nord Europa e il 45% al sud Europa. La USA usa questa connessione internet 9 ore alla settimana, che fa il 27% in più di quanto non venisse usata nel 2004. Che possiamo dire? Speriamo che questa riduzione della televisione porti bene alla radio, a questo punto che si ascolti sempre di più la radio. E allora, per restare sempre su internet, in questi ultimissimi minuti che abbiamo, vi segnalo una contrapposizione molto carina che ho trovato su Donna Moderna. Parliamo sempre di internet e parliamo anche di telefonini. Il telefonino e internet ai bambini e ai ragazzini, diciamo, quando? Rispondono Chiara Saraceno, che è una sociologa, insegna all'Università di Torino, e Marco Montemagno, che è un esperto di nuove tecnologie. Ecco, quando consentire ai bambini e ai ragazzini di utilizzare internet e il telefono cellulare? Chiara Saraceno è decisamente prudente, esordisce con un andiamoci piano sul dare subito il telefonino ai bambini: ho i miei buoni motivi per dire di no. E il primo riguarda l'educazione, perché noi italiani abbiamo già sempre il cellulare in mano. Col computer prosegue la Saraceno, le cose cambiano, è giusto che i bambini lo usino, ma facendo attenzione a ciò che fanno. Di tutt'altra natura, di tutt'altro tenore, la risposta di Montemagno, la mia risposta è: non aspettiamo troppo. C'è il problema della spesa, ma l'unica strada da percorrere, secondo Montemagno, è quella di investire tempo nella formazione dei nostri ragazzi. Più che proibire, dobbiamo insegnare ai bambini a usare bene il telefonino, e lo stesso vale per internet. Una buona educazione serve nella vita di tutti i giorni e anche quando si è al computer. Internet non è il diavolo, è una rete di comunicazione fatta di persone che possono essere buone o cattive. Nessuno dei due esperti si sbilancia a indicare un'età da cui far cominciare l'uso di internet o del telefonino, quindi bisogna un po' che ognuno poi se la ricavi per conto suo. Probabilmente né troppo presto né troppo tardi, verrebbe da dire. Certo, è difficile poi individuare per i propri figli qual è il momento giusto. E con questo abbiamo concluso la nostra rassegna di questa settimana. Io ringrazio Pietro Lacorte per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Vi do appuntamento a sabato prossimo.